Io prima di dare via il dibattito voglio spendere in maniera velocissima due parole su Roma, tanto per, dato che qui siamo nella capitale, dato che è il terreno che, su cui viviamo tutti i giorni. Allora, Roma, in sinergia con la regione, in sinergia con il governo, si sta muovendo su Roma Smart City e Roma Città dei 15 minuti su due piani convergenti. Da una parte c'è quello di, tecnologico, cioè quello dell'adeguamento di tutto il territorio a tutta una serie di problematiche. Premetto che il Giubileo è stato un pretesto eccellente, che per il Giubileo di fatto non sono state fatte tante cose, sono state fatte pochissime quelle che sono opere, chiamiamole giubilari, nel senso è stato fatto il sottopasso di Piazza Pia, la pedonalizzazione di Piazza Pia, la ripavimentazione di Piazza San Giovanni e compagnia cantando, ma i soldi di Roma Giubileo, i soldi di Roma Capitale, i soldi del PNRR sono stati e stanno usando tutti per la digitalizzazione. Tutti, assolutamente tutti, e stanno camminando come treni. Stanno facendo un mare di cose di cui noi non ci accorgiamo neanche. Vale a dire, stanno, a parte il fatto della rete 5G che la stanno portando a compimento su tutto il territorio metropolitano, la digitalizzazione di tutta la rete metropolitana, per adesso hanno fatto soltanto alcune stazioni della metro A, però entro il 2026 sono previste tutte, hanno incentivato, hanno fatto già i contratti per la per portare le telecamere nell'ambito urbano all'interno della ZTL a 15.000 dalle 7.000 che abbiamo, e dopodiché hanno fatto tutti i varchi che sono quelli dell'area della fascia verde, no? Quella che praticamente chiuderà Roma più o meno all'incirca dentro l'accordo anulare. E di questi varchi 80-81 mi pare sono già funzionanti, però non vengono fatte le multe, sono funzionanti dal punto di vista del monitoraggio, cioè loro studiano le macchine in entrata, le macchine in uscita. C'è stato un articolo non molto tempo fa che dice che è una grande sorpresa perché i cittadini romani sono diventati molto saggi, perché le macchine inquinanti che entrano sono diminuite notevolmente da quando hanno messo le telecamere, quindi c'è una presa di coscienza del cittadino molto forte che già da solo ha imparato che non deve usare le macchine inquinanti. Allora, dopodiché c'è tutto il discorso delle 100 piazze, no? Le 100 piazze di Roma, sparse a macchia di leopardo in tutto il territorio comunale, che saranno digitalizzate completamente, ma soprattutto avranno l'onore di avere quello che si chiama il design ostile della città. Il design ostile sarebbero le panchine su cui non ti puoi sbagliare, e che anzi, se tu sei seduto per più di un certo numero di minuti, cominciano a agitarsi e sono perché stai seduto lì e sei monitorato, i lampioni intelligenti, e i parchi. Allora, l'ultima trovata, se non ci fosse da piangere sarebbe da ridere, è il famoso Bosco Rosso, che è contro la violenza sulle donne. Cioè, allora, il Bosco Rosso che cos'è? Le aree che sono degradate, appunto sempre a macchia di leopardo nel territorio urbano, verranno trasformate in eccellenti parchi, monitorati da telecamere intelligenti, con l'intelligenza artificiale, in cui SIC testuale uomini e donne potranno incontrarsi in sicurezza, perché appena i lampioni monitorano qualche cosa che non va, una mano alzata, una parolaccia, come scatta l'allarme. Quindi si consiglia di darsi il primo appuntamento nel Bosco Rosso, così sei in sicurezza. Si consiglia di darsi l'ultimo appuntamento nel Bosco Rosso, perché anche l'ultimo appuntamento è pericoloso, quindi nel Bosco Rosso. Cioè, se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da lì. Allora, questa comunque è un percorso, quello della digitalizzazione, molto avanzato. Stanno mettendo le telecamere ovunque e stanno monitorando tutti a livelli diversi gli ambienti centrali per un motivo e gli ambienti periferici per un altro. L'altro piano convergente invece è quello delle città dei 15 minuti, cioè Roma è fatta in maniera particolare, cioè è fatta in modo, ha un centro storico molto grande. Questo centro storico molto grande però è fatto anche, diciamo, ha enclavi molto caratterizzanti, c'è Tridente, però c'è Costeve, c'è Monti, c'è Borgo Pio. Poi è circondata da un primo anello periferico che anche quello è molto caratterizzato, perché c'è San Lorenzo, ci sono tutte le aree della Garbatella, Testaccio, c'è anche Prati, ma ci sono anche i Parioli. E poi c'è un altro anello ancora di periferie, che anche quello ha una forte identità, cioè Centocelle, Quadraro, Valmelaina, Tufello, Primavalle. Quindi è fatta a zone molto circoscrivibili e con una forte identità di quartiere, anche se negli ultimi anni si è un po' persa. Allora, rinfocolare questa identità di quartiere è molto importante sia per il comune per un verso, sia chi si oppone a questa costruzione di città. Perché? Perché fare la città dei 15 minuti in enclavi molto caratterizzate per il comune sarebbe un incentivo, nel senso che fomenta l'orgoglio cittadino, l'orgoglio di quartiere, e poi usa la gentrificazione come sistema per dire migliorate il vostro quartiere, non avrete più lo status di periferia, di quartiere brutto, degradato e compagnia cantante. Però è molto importante opporsi a questo, perché il comune ha fatto un laboratorio, si chiama Roma Smart City Lab, che ha il compito di rapportarsi a tutte le strutture di quartiere che lavorano nel quartiere, che sono di diversi tipi, sono quelle socialdemocratiche, sono quelle della cittadinanza attiva, però ci sono anche quelle dei compagni. E allora il collaborazionismo è il piano su cui noi potremmo vincere la lotta e possiamo perderla, perché se le associazioni di quartiere spingono a un rapporto col comune e si vendono al collaborazionismo, è finita. Se invece le associazioni di quartiere, ma quelle di compagni, hanno una responsabilità particolare, in primis riescono a dire le cose come stanno e a opporsi, forse possiamo fermare qualche cosa. Quindi pensiamoci.